Buongiorno, è lunedì. Sveglia! Benvenuti all'Early Bird Special. I was out on my own in a grave. Allora, passerottini e passerottine care, benvenuti all'Early Bird Special. Il vostro parrucchiere di fiducia chiude il lunedì, la vostra pizzeria preferita chiude il lunedì, l'Early Bird Special invece apre il lunedì. Come di consueto, il vecchio Chuck Bird ha in serbo un sacco di storie sul rock and roll, notizie e aneddoti sugosi. Ehi, ma lo sapete che durante l'ultimo tour degli Stones, una sera al pubblico è stato negato il piacere di ascoltare I Can Get No Satisfaction? Ne saprete di più appena dopo Stop Dragging My Heart Around, Stevie Nicks and Tom Petty. Stevie Nicks, Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around. Mi sono capitate recentemente tra le mani le scalette, quelle che in gergo vengono chiamate set list, che i Rolling Stones hanno stilato per il loro ultimo Bigger Bang Tour. Forse il tour più importante della storia della musica rock, registrando un fatturato di 437 milioni di dollari. Dall'agosto 2005

best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up. Cares about little boys that talk too much. I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Big to be with you. Oh, oggi è lunedì, immagino che moltissimi tra voi saranno già alle prese con le pagine sportive dei giornali. Ehi, dico voi sportivi, immagino sappiate che ci sono sport decisamente pericolosi come il football americano, dove le probabilità di farsi male sul campo si girano attorno al 100%. Il golf, invece, generalmente non è ritenuto uno sport pericoloso, ma ogni golfista sa che non c'è troppo da scherzarci su. Nel 1982 un giovane golfista di New Orleans mancò clamorosamente una buca. Allora lanciò incazzatissimo la mazza il più lontano possibile. Questa colpì però con violenza il carrello da golf e si spezzò in due. L'asta rimbalzò dal carrello e trafisse il golfista al collo, provocandone la morte per dissanguamento della giugulare. E voi che ve la prendete per uno strappetto in palestra o una caviglia gonfia dopo il torneo di calcetto? George Forogood, Hello Josephine! You used to laugh at me and hollow. I used to tote you on my back. Now you try to make believe it wasn't all like that. Hello, Josephine. How do? Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me and holler, hoo, hoo, hoo. Classico del rock and roll reinterpretato da George Thorogood. Hello Josephine e hello anche Ian Astbury con i suoi Cult. Here Comes the Rain. We'll be right back. Bird Special con Chuck Bird tutte le mattine, compreso lunedì, dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM. Ehi Cherie, hai visto che è arrivata una cartolina dal nostro amico tassista? Saluta Chuck Bird, ma saluta anche te, Cherie. E grazie per la tazza di caffè nero bollente.